Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia del poeta Luca Rami, Il tuo volto. Il tuo volto mi appare nel dormiveglia, nel mattino umido. Il tuo volto mi appare in sogno ogni notte, mi appare in ogni fiore. Sì, ti vedo apparire in ogni cuore, in ogni angolo io vedo il tuo volto, bello e veritiero. Il tuo volto che non ha spazio, lineamenti o rughe. Lo vedo attraverso i tuoi occhi, occhi di cristallo da mille facce. Il tuo volto si insinua in ogni piega, in ogni foglia, in ogni granello di sabbia, ovunque e in chiunque.